Capitolo 33. Lo spettacolo all'hotel. Devi assolutamente mettere quello d'organza bianca, consigliò Diana decisa. Le due amiche erano nella cameretta in mansarda. Il sole era appena calato dietro la linea dell'orizzonte, lasciandosi alle spalle un bagliore dorato che si diluiva nel turchese scuro del cielo limpido e senza nubi. Sopra la foresta stregata era sospesa una grande luna piena che stava passando lentamente da un pallore appena accennato a un argento scuro, e l'aria risuonava dei mormorii dell'estate, il cinguettio insonnolito degli uccellini, le improvvise folate di tiepida brezza, le voci e le risa lontane. Ma nella stanza di Anna le persiane erano accostate e la lampada era accesa. Era in corso una vestizione importante. C'era una notevole differenza rispetto alla sera di 4 anni prima, quando Anna era entrata per la prima volta in quella camera. Allora la bambina aveva avuto la sensazione che la severità della stanza le penetrasse nell'anima fino al midollo con il suo gelo inospitale. I cambiamenti si erano fatti spazio pian piano e Marilla, rassegnata, li aveva concessi uno dopo l'altro, finché la camera si era trasformata nel nido grazioso e accogliente che ogni ragazza avrebbe desiderato. Il tappeto di velluto con tralci di rose e le tendine di seta che un tempo avevano riempito le fantasie di Anna continuavano a non esserci, ma i suoi sogni erano cresciuti insieme a lei e ora non ne sentiva la mancanza. In compenso, sul pavimento c'era uno scendiletto molto carino e le tende che fluttuavano davanti alla finestra, mosse dalla brezza, erano di mussola verde chiaro. Le pareti non erano rivestite di broccati d'oro e d'argento, ma da una graziosa tappezzeria dipinta a piccoli fiori di melo, ed erano ornate da un paio di deliziosi quadretti che la signora Allan le aveva regalato. Il posto d'onore era occupato da una fotografia della signorina Stacy, a cui Anna dimostrava il proprio affetto, tenendo sempre un piccolo vaso di fiori freschi sulla mensolina, sotto il ritratto. Quella sera un ramo di gigli bianchi profumava la stanza con la sua incredibile fragranza. Non c'erano mobili di mogano, ma una libreria dipinta di bianco, carica di libri, una bella sedia a dondolo in vimini, un tavolino da toilette ingentilito da una balza arricciata di mussola bianca, sopra il quale era appoggiato uno specchio dalla cornice dorata, preso dalla stanza degli ospiti. La sommità arrotondata era sovrastata da alcuni angioletti rosei e grassottelli e da grappoli d'uva purpurea. A completare l'arredamento, un basso letto bianco. Anna si stava preparando per lo spettacolo di quella sera all'hotel di White Sands. Era stato organizzato per sostenere l'ospedale di Charlottetown e il comitato si era rivolto a tutti i dilettanti di talento della zona perché partecipassero all'evento. A Bertha Sampson e a Pearl Clay del coro della Chiesa Battista di White Sands era stato chiesto di cantare un duetto. Milton Clark di Newbridge doveva eseguire un assolo di violino. Winnie Adella Blair di Carmody avrebbe intonato una ballata scozzese. Laura Spencer di Spencer Vale e Anna Shirley di Avonlea avrebbero invece recitato alcuni brani teatrali. Quell'evento, come la ragazza avrebbe detto quando era più piccola, segnava una svolta nella sua vita e ne era piacevolmente emozionata. Matthew era al settimo cielo, fiero e orgoglioso dell'onore riservato alla sua Anna, e lo stesso valeva per Marilla, che però sarebbe morta piuttosto che ammetterlo, e aveva dichiarato che riteneva molto sconveniente che tutti quei giovani andassero a perdere tempo in un hotel senza che una persona responsabile li accompagnasse. Anna e Diana sarebbero partite con Jane Andrews e suo fratello Billy, che conduceva il calesse. Anche molti altri ragazzi e ragazze di Avonlea avrebbero preso parte all'evento. Era atteso un nutrito gruppo di visitatori da fuori città e dopo lo spettacolo era stata organizzata una cena per coloro che si erano esibiti. «Sei davvero convinta che il vestito di organza sia la scelta migliore?» domandò Anna ansiosa. «A me non sembra carino come quello di mussola fiorellini blu e di certo non è altrettanto alla moda». «Però ti sta meglio», le assicurò Diana. «È morbido, ricco di pizzi e mette in risalto la tua figura». Quello di mussola è rigido e ti dà un'aria pomposa, invece quello di organza sembra fatto apposta per te. Anna cedette con un sospiro, L'amica era famosa per il suo buon gusto e i suoi consigli in materia di abbigliamento erano molto richiesti. Anche lei era molto graziosa quella sera, con l'abito di un adorabile rosa pallido, colore che ad Anna sarebbe stato sempre vietato. Ma Diana non doveva salire sul palco, quindi il suo aspetto era meno importante. Tutti i suoi sforzi erano quindi concentrati sull'abbigliamento di Anna che, lo aveva promesso, quel giorno doveva essere vestita, pettinata e splendida come una regina per la gloria di Avonlea. Tira più in fuori quel pizzo, così, ecco, aspetta che ti annodo la fascia e adesso le scarpe. Ti divido i capelli in due grosse trecce e le fisso dietro la nuca con un grande fiocco bianco. No, no, non mettere sulla fronte neppure una ciocca, solo i riccioli più corti. È la pettinatura che ti sta meglio in assoluto. Anna, ti dona proprio. E la signora Allan dice che quando raccogli i capelli così, sembri una Madonna. Ah, guarda, questa era l'unica rosellina bianca del mio cespuglio e l'ho colta per te. Te la sistemo dietro l'orecchio. Metto la collana di perle? Domandò Anna. Matthew me ne ha portato un filo dalla città la settimana scorsa e so che gli farebbe tanto piacere che lo indossassi. Diana sporse le labbra, piegò di lato la testa scura, con aria critica, e infine si pronunciò a favore delle perle, che furono quindi allacciate intorno al collo sottile e bianco come il latte della ragazza dai capelli rosso Tiziano. Oh, hai uno stile così particolare, Anna, commentò Diana senza traccia di invidia. Il modo in cui tieni sempre la testa dritta e la linea del collo sono così eleganti. Probabilmente merito del fisico snello. Io invece sembro una polpetta. È sempre stata la mia paura e adesso so che è vero, mi toccherà rassegnarmi. Ma se hai delle fossette adorabili, esclamò Anna, sorridendo affettuosamente al viso grazioso accanto al suo. Delle fossette deliziose con piccole ammaccature nella panna. Io sì che ormai mi sono rassegnata. Per me il sogno delle fossette non diventerà mai realtà. Ma tanti altri invece si sono realizzati, quindi non posso lamentarmi. Che ne dici, sono pronta adesso? Oh, prontissima, assicurò Diana mentre Marilla si affacciava alla porta un po' curva, con più capelli grigi di una volta e il viso sempre spigoloso, ma con un'espressione più dolce. Venga a vedere la nostra attrice, Marilla. Non è una delizia? L'anziana donna emise un suono che stava tra il sospiro e il grugnito. Ha un aspetto ordinato e decoroso. L'acconciatura mi piace. Immagino che lo rovinerà quel vestito indossandolo per il viaggio con tutta la polvere e la rugiada. E mi sembra un po' leggero per queste sere umide. Certo, l'organza è la stoffa meno pratica del mondo. Io l'ho anche detto a Matthew quando l'ha comprata, ma ultimamente non mi ascolta. Una volta seguiva i miei consigli. Invece ora compra cose per Anna di testa sua. I commessi dei negozi di Carmody hanno capito che possono rifilargli di tutto. Basta che gli dicano che è graziosa e alla moda e mio fratello si fa abbindolare, tira fuori i soldi e paga. Comunque, stai attenta con quella gonna, Anna. Tienila lontana dalle ruote e metti la giacca pesante. Con queste parole, Marilla scese pesantemente al piano di sotto, dicendosi con orgoglio quanto fosse carina Anna con quel singolo raggio di luna che correva dalla fronte alla nuca, e dispiacendosi di non poter andare al concerto per veder recitare la sua ragazza. Forse è davvero troppo umido per mettere questo vestito, riflette Anna in ansia. Oh, neanche per sogno, ribatté Diana aprendo gli scuri. È una serata perfetta e non ci sarà nessuna umidità. Guarda che luna! Oh, sono contenta che la mia finestra sia rivolta a est sull'alba, disse Anna avvicinandosi all'amica. È magnifico vedere il sole che sorge da quella fila di colline e che risplende dietro le punte degli abeti. Mi dà sempre la sensazione di tuffare l'anima nella sorgente del primo raggio. Oh, Diana, sapessi quanto profondamente affezionata sono a questa camera. Non so come farò il mese prossimo quando andrò a stare in città. Oh, stasera non parlare della tua partenza, ti prego, la interruppe la sua amica del cuore. Non ci voglio pensare, mi fa venire una tristezza. E invece voglio divertirmi. Cosa hai deciso di recitare, Anna? Sei nervosa? Neanche un po'. Ormai ho recitato talmente tante volte in pubblico che non mi agito più. Ho deciso di fare il voto della fanciulla. È così commovente. Laura Spencer farà un pezzo comico, ma io preferisco far piangere la gente. anziché ridere. E se ti chiedono il bis? Ah, figurati se me lo chiedono, replicò Anna, che in realtà in segreto ci sperava e già si vedeva raccontare tutto a Matthew il mattino dopo a colazione. Billy e Jane stanno arrivando, sento il rumore delle ruote. Andiamo. Billy Andrews insisté affinché Anna prendesse posto al suo fianco a cassetta e lei fu costretta controvoglia ad arrampicarsi davanti. Avrebbe preferito star dietro, seduta con le sue amiche per chiacchierare e ridere quanto le pareva. Invece non si rideva e non si conversava con Billy. Era un ragazzo sui 20 anni, grande, grosso e un po' tonto. Aveva una faccia tonda e senza espressione, era terribilmente goffo e incapace di sostenere un discorso minimamente dignitoso. Però nutriva nei confronti di Anna un'ammirazione incondizionata e si inorgogliva all'idea di arrivare a White Sands con quella ragazza snella ed eretta seduta accanto a lui. Comunque, girandosi a parlare con le ragazze e rivolgendo di tanto in tanto una frase di cortesia a Billy, che reagiva sorridendo e ridacchiando, ma non riusciva mai a farsi venire in mente una risposta adeguata in tempi brevi, Anna poté ugualmente godersi il viaggio. Quella serata doveva essere dedicata esclusivamente al divertimento. C'era traffico per strada, i calessi erano tutti diretti all'hotel e ovunque risuonavano risate squillanti che riempivano la via. Quando arrivarono, l'albergo era avvolto in un tripudio di luci. Attrici e cantanti furono accolte dalle signore del comitato che aveva organizzato lo spettacolo, una delle quali accompagnò Anna nel camerino degli artisti, dove c'erano già i membri del club sinfonico di Charlottetown. In mezzo a loro la ragazza si sentì subito intimidita, spaventata e rustica. Il suo abito, che nella mansarda le era parso tanto fine e grazioso, ora le appariva così semplice e modesto, troppo semplice e modesto. Misero, si disse, in mezzo alla profusione di sete e pizzi che splendevano e le frusciavano attorno. Cos'era il suo filo di perle a confronto dei diamanti della signora affascinante e imponente che le stava vicino? E quanto doveva apparire misera la sua Rosellina accanto agli esotici fiori di serra sfoggiati dalle altre? Anna tolse giacca e cappello e li posò in un angolo avvilita. Aveva una gran voglia di tornare nella sua cameretta bianca a Green Gables. Quando poi si ritrovò sul palco della grande sala da concerti dell'albergo fu anche peggio. Le intense luci elettriche la abbagliarono, i profumi e il brusio incessante la stordirono. Avrebbe preferito essere seduta in mezzo al pubblico insieme a Diana e a Jane, che avevano l'aria di divertirsi un mondo sedute là in fondo. Lei invece era strizzata tra una signora bassa e massiccia vestita di seta rosa e una ragazza smilza e altezzosa con un abito di pizzo bianco. Ogni tanto la signora si girava a scrutarla dalla testa ai piedi attraverso il monocolo, tanto che Anna, sentendosi decisamente osservata, ebbe la tentazione di mettersi a urlare. La ragazza invece continuava a parlare con il vicino a voce alta delle ragazzotte di campagna e delle rustiche bellezze in mezzo al pubblico, pregustando già grasse risate per le esibizioni dei talenti locali inseriti nel programma. Anna pensò che avrebbe detestato quell'antipatica fino alla morte. Per sua sfortuna, un'attrice professionista ospite dell'albergo aveva accettato di recitare un brano. Era una donna elegante, dai grandi occhi scuri, con un meraviglioso abito grigio cangiante che sembrava intessuto di raggi di luna e con gemme al collo e tra i capelli neri. La sua voce era magnifica, fluida e incredibilmente espressiva. Dopo aver assistito alla sua selezione di brani, il pubblico si infiammò. Anna l'ascoltò rapita, con gli occhi che brillavano, e per qualche minuto dimenticò tutti i suoi problemi, ma appena l'esibizione si concluse, di scatto si nascose il viso tra le mani. Come aveva potuto illudersi di saper recitare? Oh, perché non era rimasta a Green Gables? Fu proprio in quel momento, il meno indicato, che sentì chiamare il suo nome. In qualche modo Anna si alzò e si diresse barcollando verso il centro del palco. Non si era accorta dell'espressione di colpevole dispiacere che era apparso sul viso della ragazza in pizzo bianco, e se anche l'avesse notata non avrebbe colto il complimento sottinteso che nascondeva. Era talmente pallida che Diana e Jane tra il pubblico si strinsero le mani a vicenda, ansiose. Per un attimo, Anna fu travolta dal panico da palcoscenico. Anche se aveva recitato spesso in pubblico, non si era mai trovata di fronte a una platea di quel livello e così numerosa. La sola vista del pubblico la paralizzò completamente. Tutto era così assurdo, scintillante, abbagliante. Le file di signori in abito da sera, i volti che la fissavano perplessi, l'atmosfera ricca e colta che trasudava da ogni dettaglio. Era tutto molto diverso dai semplici sedili del circolo culturale di Avon Lee. L'avrebbero coperta di critiche spietate. Probabilmente, come la ragazza vestita di pizzo bianco, si aspettavano già di ridere per i suoi rustici sforzi. Si vergognò profondamente e ci restò malissimo, il che le fece perdere ogni speranza. Le tremarono le ginocchia, le girò la testa e fu travolta da una debolezza insormontabile. Non riusciva a pronunciare una parola. Ancora un attimo e sarebbe scappata via da quel palco senza pensare all'umiliazione che, lo sapeva già, l'avrebbe perseguitata per il resto dei suoi giorni. Ma all'improvviso, mentre scrutava il pubblico con gli occhi dilatati e terrorizzati, in fondo alla sala vide Gilbert Blythe, proteso in avanti con un sorriso sulle labbra, un sorriso che le sembrò trionfante e sarcastico. In realtà non era così, il sorriso di Gilbert esprimeva la sua incondizionata approvazione per la situazione in generale e per l'effetto che la figura snella e bianca di Anna, con quel suo viso così limpido e spirituale, faceva contro il fondale decorato da palme. Josie Pye, a cui il ragazzo aveva dato un passaggio, gli era seduta accanto e la sua era davvero un'espressione di sarcastico trionfo. Ma Anna non notò Josie, e se anche si fosse accorta della sua presenza, non se ne sarebbe curata. Fece un lungo respiro e alzò la testa con rinnovata fierezza. Coraggio e determinazione le corsero in tutto il corpo come una scossa elettrica. Non poteva fallire di fronte a Gilbert Blythe. Non gli avrebbe mai dato l'occasione di ridere di lei. Mai e poi mai. Paura e nervosismo svanirono di colpo. E Anna iniziò a recitare il testo che aveva scelto, mentre la sua voce dolce e limpida raggiunse ogni angolo della sala senza un tremito né un'esitazione. Aveva recuperato un perfetto autocontrollo e come per reazione all'orribile momento che aveva appena vissuto, recitò come non aveva mai fatto prima. Quando terminò, gli applausi scrosciarono spontanei. Mentre tornava al suo posto, rossa per la timidezza e il piacere, Anna si vide afferrare e stringere energicamente la mano dalla signora bassa e tozza in seta rosa. «Mia cara, sei stata magnifica!» esclamò la donna. «Ho pianto come una bambina, ti assicuro! Senti, chiedono il bis! Devi tornare sul palco!» «Oh, ma io non posso!» ribatté Anna, confusa. «Però devo, altrimenti Matthew ci resterà male. Me l'aveva detto che il pubblico avrebbe voluto il bis.» «E allora non deludere Matthew», la incoraggiò la signora in rosa con una risata. Anna sorrise, arrossì e inciampò nel tornare sul palco, dove recitò una selezione di brani lievi e divertenti che incantarono letteralmente gli spettatori. Il resto della serata fu un trionfo. Alla fine dello spettacolo, la signora in rosa, che era la moglie di un miliardario americano, decisa e protettiva come una chioccia, si preoccupò di presentarla a tutti e tutti furono estremamente gentili con lei. L'attrice professionista, la signora Evans, andò personalmente a conoscerla e a complimentarsi. Le disse che aveva una voce affascinante e interpretava a meraviglia i suoi testi. Anche la ragazza in pizzo bianco si degnò di farle un piccolo complimento. Poi andarono nel grande salone per la cena. Gli addobbi erano splendidi e anche Diana e Jane furono invitate a partecipare, poiché erano insieme ad Anna, mentre Billy non fu trovato da nessuna parte. Se l'era data a gambe proprio per il terrore che a qualcuno venisse in mente di invitarlo. Quando la festa finì e le tre ragazze uscirono allegramente al chiaro di luna, lo trovarono in attesa accanto ai cavalli. Anna fece un profondo respiro e scrutò il cielo chiaro oltre i rami scuri degli abeti. «Oh, Era bello essere di nuovo fuori nella purezza e nel silenzio della notte. Com'era tutto grande, fermo e meraviglioso, con il mormorio del mare che arrivava da lontano e le scogliere cupe, simili a giganti schierati a custodire le rive incantate. Non è stato tutto assolutamente fantastico? Sospirò Jane mentre si allontanava in calesse. Vorrei tanto essere una ricca americana e trascorrere l'estate in albergo. Indosserei gioielli e abiti scollati e mangerei gelati e insalata di pollo tutti i santi giorni. Di sicuro sarebbe molto più divertente che insegnare in una scuola. Anna, la tua interpretazione è stata a dir poco grandiosa. Anche se all'inizio ho avuto paura, sembrava che non riuscissi a cominciare. Comunque, secondo me, sei stata più brava della signora Evans. Oh, non dire così, Jane, replicò subito Anna, perché è una sciocchezza. Non potrei mai essere migliore della signora Evans, lo sai. Lei è una professionista, io sono solo una scolaretta un po' portata per la recitazione. Sono già soddisfatta che il pubblico abbia apprezzato i miei brani. A proposito, Anna, ti devo riferire un complimento, intervenne Diana, almeno credo che lo fosse, dato il tono con cui è stato pronunciato. Almeno in parte lo era, ecco. C'era un americano seduto dietro di noi, un tipo dall'aspetto romantico, con occhi e capelli neri come il carbone. Josie Pye dice che è un pittore famoso e che la cugina di sua madre a Boston ha sposato uno che andava a scuola con lui. Insomma, l'americano ha detto, e l'abbiamo proprio sentito, vero Jane? Ma chi è la ragazza sul palco con quella splendida chioma color Tiziano? Ha un viso che mi piacerebbe molto ritrarre. Ecco, Anna, ma cosa vuol dire chioma color Tiziano? Ah, vuol semplicemente dire capelli rossi, credo, rise la ragazza. Tiziano era un famoso pittore italiano che amava dipingere donne con i capelli rossi. Ma avete visto che diamanti indossavano tutte quelle signore? Ah, sospirò Jane. Erano abbaglianti. Non vi piacerebbe essere ricche, ragazze? Ma noi siamo ricche, rispose Anna risoluta. Abbiamo 16 anni, siamo contente come regine e siamo tutte dotate di immaginazione, chi più chi meno. Guardate il mare, tutto pieno di scintille d'argento e di misteri nascosti. La sua bellezza non ci sarebbe più gradita se possedessimo milioni di dollari e collane di diamanti. In realtà nessuna di voi vorrebbe prendere il posto di quelle donne, neanche se potesse. Non è così, forse? Fareste davvero il cambio con quella ragazza vestita di pizzo bianco? E andreste volentieri in giro per tutta la vita con quell'aria acida e la puzza sotto il naso? Neanche foste nate solo per disprezzare il mondo? Oh, l'altra signora vestita di rosa, gentile e carina quanto vi pare, ma bassa come un tappo, tozza, una che non sa neppure che cosa sia l'eleganza. O addirittura la signora Evans, con quella tristezza infinita negli occhi. Deve essere davvero infelice una persona per avere un'espressione del genere. Oh, ammettilo, Jane Andrews, non ti andrebbe di fare a cambio con loro. Boh, ribatté l'altra, poco convinta. Secondo me i diamanti consolano parecchio, comunque. Beh, io voglio essere soltanto me stessa. Anche se per riuscirci dovessi fare a meno della consolazione dei diamanti, dichiarò Anna. E sono contenta di essere Anna di Green Gables, con la mia collanina di perle, perché so che Matthew me l'ha regalata con un affetto che vale molto di più dei preziosi gioielli della signora in rosa. Capitolo 34. Una ragazza della Queens. A Green Gables le 3 settimane che seguirono furono convulse perché Anna stava preparando tutto ciò che le serviva per andare alla Queen's Academy e c'era molto da cucire e altrettanto da discutere e organizzare. Il guardaroba nuovo fu adeguato, abbondante e molto carino perché se ne occupò personalmente Matthew. Per una volta Marilla non brontolò né obiettò qualsiasi cosa suo fratello acquistasse o suggerisse per Anna. Anzi, una sera salì in mansarda con un delicato tessuto verde pallido. Guarda, Anna, questa stoffa è perfetta per un bell'abitino. Non che tu ne abbia davvero bisogno, a dire il vero, bei vestiti, mi sembra che tu ne abbia parecchi, però ho pensato che magari ti sarebbe piaciuto avere qualcosa di elegante nel caso ricevessi un invito per una serata in città. magari per una festa. Ho sentito dire in giro che Jane, Ruby e Josie hanno tutte un abito da sera, così li chiamano loro, e non permetto che tu sia da meno. Ho chiesto alla signora Allan di aiutarmi a scegliere il tessuto la settimana scorsa in città e faremo cucire il vestito da Emily Gillis. È un'ottima sarta, ha molto buon gusto e i suoi modelli sono ineguagliabili. Oh, Marilla, è una delizia! Esclamò Anna. Oh, grazie mille. Non dovresti essere tanto gentile con me. Così ogni giorno diventa più difficile partire. Il vestito verdino fu realizzato con tutte le pieghettature, increspature e balze arricciate consentite dal gusto di Emily. Anna lo indossò una sera solo per la gioia di Matthew e Marilla e recitò il voto della fanciulla per loro in cucina. Mentre guardava il viso luminoso e animato e i gesti vivaci e aggraziati della ragazza, Marilla tornò col pensiero alla sera in cui Anna era arrivata a Green Gables e le rivenne in mente la strana bambina spaventata con quell'orribile vestitino di flanella giallastra e gli occhi pieni di lacrime da spezzare il cuore. Qualcosa in quell'immagine fece riempire di lacrime anche gli occhi di Marilla, nonostante fosse tutto passato. Oh, questa poi, Marilla, la mia recita ti ha fatto piangere! Esclamò Anna allegramente, correndo vicino alla sedia della donna e posandole sulla guancia un bacio lieve come una farfalla. Un vero e proprio trionfo! No, non stavo piangendo per questo, ribatté Marilla, che avrebbe sempre negato la possibilità di poter cadere in una simile debolezza a causa di roba poetica. È solo che non ho potuto evitare di ricordare la bambina che eri, Anna. Quanto mi sarebbe piaciuto che potessi restare per sempre bambina, anche con tutte le tue bizzarrie. E invece adesso sei grande e stai per andartene, e sei così alta, distinta, e così, così, completamente diversa con quell'abito, come se non appartenessi neppure ad Avonlea. E tutti questi pensieri mi hanno fatto venire la malinconia. Mi sono sentita sola. Marilla. Anna si accoccolò sul grembo coperto di percale della donna, le prese tra le mani il volto segnato e la fissò negli occhi, seria e tenera allo stesso tempo. Io non sono cambiata, neanche un po'. Sono solo stata potata bene e ho prodotto rami nuovi. La vera me, quella qui dentro, è sempre la stessa. Non farà la minima differenza dove andrò o quanto cambierò nell'aspetto esteriore. In fondo al cuore resterò la tua piccola Anna, che vorrà bene a te, a Matthew e alla cara Green Gables, sempre di più e sempre meglio ogni giorno della sua vita. La ragazza posò la guancia liscia su quella rugosa di Marilla e allungò una mano per dare una pacca sulla spalla di Matthew. In quel momento Marilla avrebbe pagato oro per possedere la capacità di Anna di esprimere a parole i propri sentimenti, ma il carattere e l'abitudine avevano voluto altrimenti, quindi riuscì solo ad abbracciarla dolcemente e a stringersela al petto, augurandosi di non doverla lasciare mai. Con un luccichio sospetto negli occhi, Matthew si alzò e uscì di casa. Era agitato e si mise a camminare nervosamente sotto la stellata della notte estiva. Attraversò il cortile e si spinse fino al cancello sotto i pioppi. Beh, ecco, comunque la bambina non è stata viziata, bofonchiò con orgoglio. Se anche qualche volta ci ho messo il becco, non mi sembra proprio di aver fatto danni. Anna è intelligente, graziosa e anche affettuosa, che è la cosa più importante. Per noi è stata una benedizione. Non è mai esistito un errore più fortunato di quello della signora Spencer, sempre che di fortuna si possa parlare, perché non credo che c'entri in questa storia. È stata, ecco, la provvidenza. Per quanto mi riguarda, scommetto che l'onnipotente ha capito che avevamo bisogno di lei e ce l'ha mandata. E alla fine arrivò il giorno della partenza. In una bella mattina di settembre, Anna e Matthew si avviarono in calesse. Dopo l'addio a Diana, bagnato da un fiume di lacrime, e il saluto a Marilla più composto, almeno da parte della donna. In ogni caso, quando Anna non fu più in vista, Diana si asciugò le lacrime, partecipò a un picnic a White Sands con alcuni cugini di Carmody e riuscì perfino a divertirsi un po'. Al contrario, L'anziana donna si buttò a capofitto in una serie di lavori inutili e sgobbò per tutta la giornata in preda all'angoscia più profonda, a quel dispiacere che stringe il cuore e non si lava via con qualche lacrima passeggera. Quella sera, però, quando andò a letto, alla tristezza si aggiunse la consapevolezza quasi fisica che la cameretta in mansarda, in cima alle scale, era vuota della giovane vita che l'aveva abitata fino a quel mattino e immobile per l'assenza del respiro lieve di Anna. Allora affondò la faccia nel cuscino e pianse per la partenza della sua bambina con singhiozzi inarrestabili, cosa per la quale si irritò profondamente con se stessa quando fu abbastanza calma da riflettere su quanto fosse disdicevole attaccarsi tanto a un proprio simile. Anna e il resto degli alunni di Avonlea arrivarono in città appena in tempo per correre all'accademia. Il primo giorno di scuola volò in un lampo, tra la conoscenza dei compagni di studio, i primi contatti con i numerosi professori e la distribuzione nelle varie classi. Anna aveva deciso di seguire il corso di studi del secondo anno, come le aveva suggerito la signorina Stacy, e Gilbert Blythe fece la stessa scelta. Se ce l'avessero fatta, sarebbero riusciti a ottenere la licenza di insegnamento di prima classe in un anno anziché in due. Anche se l'impegno richiesto da una simile impresa sarebbe stato ben più pesante. Jane, Ruby, Josie, Charlie e Moody Spurgeon, che non erano altrettanto ambiziosi, si sarebbero preparati per una licenza di seconda classe. Anna provò una fitta di solitudine quando si ritrovò in una stanza con altri 50 studenti che non conosceva, a parte il ragazzo alto e bruno che era andato a sedersi dalla parte opposta dell'aula. E quella conoscenza non le sarebbe servita a niente, rifletté pessimista, anche se in realtà era contenta di essere nella stessa classe di Gilbert. In quel modo sarebbe continuata l'antica rivalità senza la quale Anna si sarebbe sentita ancora più persa. Ah, se non ci fosse lui mi sentirei a disagio, ammise tra sé. Gilbert ha un'aria incredibilmente determinata. Scommetto che ha già deciso di vincere la medaglia d'oro. Però, che linea elegante ha il suo mento. Non ci avevo mai fatto caso. Mi sarebbe tanto piaciuto che anche Jane e Ruby scegliessero la licenza di prima classe, ma immagino che appena conoscerò qualcun altro non mi sentirò più così sola. Chissà con quali ragazze farò amicizia. Questo è un pensiero molto interessante. Certo, ho promesso a Diana che per quanto possa piacermi, nessuna ragazza della Queens potrà mai essere la mia amica del cuore, perché quella è solo lei, ma ho tanti secondi o terzi posti da distribuire. Per esempio, la ragazza laggiù con gli occhi scuri e il corpetto cremisi mi piace. Ha un'aria simpatica e ha quelle belle guance rosse. E c'è anche l'altra, pallida e bionda, che sta guardando fuori dalla finestra. Ha dei capelli stupendi e sembra una grande esperta di castelli in aria. Mi piacerebbe conoscerle tutte e due, abbastanza da scambiarci confidenze, passeggiare a braccetto per strada e dare un soprannome a ciascuna. Però, intanto non abbiamo ancora scambiato una parola e magari loro non hanno nessuna voglia di diventare mie amiche. Oh, che solitudine! Quando poi quella sera Anna si ritrovò in camera sua, la solitudine si fece sentire ancora di più. Non abitava con le altre ragazze, tutte avevano parenti in città ed erano ospiti in casa loro. La signorina Josephine Barry sarebbe stata felice di averla con sé, ma Beechwood era troppo distante dall'accademia, quindi non era possibile sfruttare la sua disponibilità. Tuttavia, la zia di Diana si era occupata di trovarle un posto a pensione, assicurando a Matthew e Marilla che era una soluzione ideale per Anna. La padrona di casa è una gentildonna decaduta, spiegò. Il marito era un ufficiale britannico e lei seleziona con estrema severità i propri inquilini. Anna incontrerà soltanto persone assolutamente rispettabili sotto il suo tetto. Il cibo è buono e la casa è in un quartiere tranquillo, vicino alla Queen's Academy. Oh, poteva anche essere tutto vero, in effetti lo era, ma nulla di tutto ciò aiutò materialmente Anna a calmare la violenta nostalgia di casa che la travolse in un primo momento. La ragazza fissò disperata la stanzetta angusta, la tappezzeria scolorita, le pareti spoglie, il piccolo letto in ferro battuto e la libreria vuota. Le salì un groppo in gola, ripensando alla cameretta bianca nella mansarda di Green Gables, dove avrebbe avuto la piacevole consapevolezza del placido paesaggio naturale fuori dalla finestra, dei piselli odorosi che crescevano dappertutto in giardino e del chiaro di luna che inondava l'orto, del ruscello che scorreva e sulla riva opposta dei rami di abete che frusciavano al vento di una stellata magnifica nel cielo infinito e del lume sul davanzale della finestra di Diana che ammiccava tra gli alberi. Lì, in città, non aveva nulla di simile. Avvertiva quasi fisicamente che fuori dalla finestra c'erano una strada inospitale, una rete di cavi telefonici che impediva di vedere il cielo, il rumore di passi estranei e mille luci che illuminavano facce sconosciute. Si rese conto che stava per scoppiare a piangere, ma cercò di trattenersi. No, non piangerò, lo fanno solo gli sciocchi e i deboli. Ecco la terza lacrima che mi corre lungo il naso e ce ne sono altre in arrivo. L'unico modo per fermarle è pensare a qualcosa di divertente. Ma mi vengono in mente solo episodi legati ad Avonlea, tanto per peggiorare la situazione. Quattro, cinque. Sì, lo so, venerdì vado a casa, però mi sembra che manchi un secolo a venerdì. Ecco, adesso Matthew è quasi arrivato a casa e Marilla è al cancello ad aspettarlo. 6, 7, 8, uffa, è anche inutile contarle. Ormai è un fiume in piena, non riesco proprio a tirarmi su di morale e non voglio farlo. Ecco, è più bello essere triste. L'inondazione di lacrime sarebbe senza dubbio arrivata se in quel momento non fosse entrata in scena Josie Pye. Nella gioia di vedere un viso familiare, Anna dimenticò che tra lei e Josie non c'era mai stato un grande affetto, semplicemente perché di Avonlea. Anche un paio era il benvenuto. Oh, sono così felice che tu sia venuta, l'accolse ed era sincera. Ma tu hai pianto? Osservò Josie con un tono di irritante compassione. Scommetto che hai nostalgia di casa. Certe persone dimostrano poco autocontrollo in queste situazioni. Io non mi sogno neanche di farmi prendere dalla nostalgia. Figurati, c'è talmente tanto da fare e da vedere in città a confronto di quel mortorio di Avonlea, così piccola, vecchia. Non so come ho fatto a resistere per tutto questo tempo in quel buco di posto. Comunque, non dovresti piangere, Anna. Ti vengono il naso e gli occhi rossi e così sembri tutta rossa. Oggi all'Accademia mi sono veramente divertita. Il nostro professore di francese è adorabile, ha certi baffi che ti fanno prendere un colpo al cuore. Hai qualcosa da mangiare, Anna? Sto morendo di fame. Ah, mi pareva strano che Marilla non ti avesse rifornito di torta. Per questo sono passata a trovarti, altrimenti sarei andata con Frank Stockley al parco a sentir suonare l'orchestrina. Sai, sta nello stesso posto dove abito io ed è molto simpatico. Oggi in classe ti ha notata e mi ha chiesto chi era la ragazza con i capelli rossi. Gli ho spiegato che sei un'orfana che i Cuthbert hanno adottato e che nessuno sa un granché sulle tue origini. Anna stava chiedendosi se, tutto sommato, la solitudine e le lacrime non fossero meglio della compagnia di Josie Pye, quando arrivarono Jane e Ruby, ciascuna con un fiocchetto con i colori della Queen's, viola e rosso scarlatto, appuntato con fierezza sul bavero della giacca. Dato che in quel periodo non rivolgeva la parola a Jane, Josie fu costretta a tacere e a quel punto divenne più o meno innocua. «Aspita!» esclamò Jane con un sospiro. «Mi sembra che siano già trascorsi molti mesi da stamattina. Dovrei essere a casa a studiare Virgilio. Quell'orribile professore ci ha dato 20 versi per domani, tanto per cominciare bene. Ma stasera proprio non ce la facevo a mettermi a studiare. Anna, scusa, mi pare di notare tracce di lacrime sul tuo viso. Se hai pianto, dillo, ti prego.» Mi permetterà di recuperare un po' di rispetto per me stessa, perché prima che arrivasse Ruby, anch'io stavo piangendo come una fontana. E se lo ha fatto anche qualcun altro, mi sentirò meno stupida. Ecco, torta? Me ne dai un pezzettino, vero? Oh, grazie. Sa proprio di Avonlea. Ruby aveva visto il calendario della Queen's posato sul tavolo e voleva sapere se Anna aveva intenzione di competere per la medaglia d'oro. Anna arrossì e ammise che sì, in effetti ci stava pensando. Oh, a proposito, intervenne Josie, Alla fine, qui alla Queen's avremo a disposizione una delle borse di studio Avery. Me l'ha detto Frank Stockley. Sapete, suo zio fa parte del consiglio di amministrazione. Lo annunceranno ufficialmente domani a tutta la scuola. Una borsa di studio Avery? Il cuore di Anna cominciò a battere all'impazzata e di colpo, come per magia, gli orizzonti della sua ambizione si allargarono. Prima che Josie riferisse quella notizia al massimo, Anna aveva aspirato a ottenere alla fine dell'anno una licenza da insegnante di prima classe per la provincia e magari vincere la medaglia, ma bastò quella breve frase perché, prima ancora che l'eco delle parole di Josie si fosse spenta, Anna si vedesse conquistare la borsa di studio. Frequentare un corso di lettere al Redmond College e laurearsi con toga e tocco accademico. E questo perché la borsa di studio Avery veniva assegnata in base ai voti di lettere, la materia in cui Anna si sentiva più forte. Alla morte, un ricco industriale di New Brunswick aveva destinato parte del suo patrimonio al finanziamento di un gran numero di borse di studio, da distribuire tra le varie scuole superiori e accademie delle province marittime, selezionate in base alla loro reputazione. C'erano stati molti dubbi sull'eventualità che una di quelle borse fosse assegnata alla Queen's, ma finalmente la selezione era stata fatta e alla fine dell'anno il diplomato con il voto più alto in lingua e letteratura avrebbe vinto la borsa di studio, 250 dollari all'anno per 4 anni per il Redmond College. Non c'era da stupirsi se Anna quella sera si coricò con le guance rosse per l'eccitazione. Se basta impegnarsi al massimo per avere quella borsa di studio, io l'avrò, decretò. Matthew sarebbe orgogliosissimo di me se riuscissi a laurearmi. Oh, è magnifico avere delle aspirazioni. Sono proprio felice di averne tante. Mi pare che non finiscano mai. E questa è la cosa più bella di tutte. Appena raggiungi un traguardo, subito ne vedi un altro là, che risplende ancora più in alto. Così la vita è molto più interessante.